Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Data numero 52 di Picchi di Frequenza, che apre con l'incontro con Nicole Forti, autrice di Quattro Passi in Famiglia, che verrà presentato domani al Festival Vette in Vista, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, e dedica il suo blocco principale all'intervista con le Brigate di Solidarietà Attiva, a partire dal loro call for action, dal loro appello dai campi al campo, per vedere che cosa accade a 6 mesi dal terremoto della scorsa estate. Mentre noi, confessando che questa settimana non abbiamo avuto spazio per la rubrica di Pedagogia della Montagna, andiamo a sentire le news. Delle tante notizie di montagna che ci ha regalato la scorsa settimana, piacevoli e non, ne abbiamo selezionato 3. Cominciamo con una non piacevole, perché il Consiglio regionale piemontese, nell'ultimo giorno del mese di gennaio, ha approvato all'unanimità la revisione della legge in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani, invernali ed estivi. In particolare, per quanto riguarda gli eliski, per la prima volta arriva una regolamentazione che nega alla pratica le aree protette, le aree della rete Natura 2000 e le aree in cui non sono presenti impianti di risalita attiva. Al di là di questo, insomma, lascia la discrezionalità ai comuni, e proprio per questo, spostandoci su mountcity.it, ricordiamo l'appuntamento che si terrà sabato prossimo, sabato 11 febbraio a Lanzo, in provincia di Torino, con un incontro pubblico alle ore 15 organizzato da Mountain Wilderness. Inaugura così la settimana di iniziative di Balm Experience. Il titolo dell'incontro sarà Turismo degli elicotteri o Turismo del rispetto. Altra notizia, anche di quelle che colpiscono, arriva invece da montagna.tv. Ortles, il ghiacciaio si muove dopo 7000 anni. Grazie a uno studio internazionale, a cui peraltro partecipa l'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali, insomma il CNR, lo studio pubblicato da Cryosphere, è stato rilevato che il ghiacciaio più profondo e antico presente sull'Ortles, parliamo di una montagna che sfiora quasi 4000 metri, 3905 per la precisione, sulle Alpi orientali, ha cominciato a muoversi per la prima volta dai tempi dell'uomo di Similaun. Le carote di ghiaccio indicano come il ghiacciaio più elevato dell'Alto Adige abbia cominciato una fase di accelerazione del movimento, un'accelerazione che viene descritta nell'articolo senza precedenti, la tecnica del carbonio 14, insomma, poi si entra nei tecnicismi dell'articolo, però la notizia è questa, è che pare che l'Ortles abbia cominciato a camminare un po' più in fretta, non soltanto di quanto previsto, ma di quanto avvenuto da quando l'uomo ha imparato a coltivare. In ultimo, l'Italia non è un paese per lupi, al via l'abbattimento controllato e l'hashtag è SOS Lupo. In realtà questa cosa non è del tutto vero, nel senso che questo è uno degli articoli, il titolo di uno degli articoli pubblicati la scorsa settimana. La proposta di legge è stata in realtà rinviata nuovamente in fase tecnica, bocciata all'unanimità, ma di questo argomento parleremo la prossima settimana. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether you're Sorrowell's son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian, racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat, I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son, I have a duty calling on me, you and your sister, be brave, my little soldier, and don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this, and when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning woke mama with a kiss on each eyelid, even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be alright when Daddy comes home tonight. Siamo al telefono questa sera con Nicole Forti. Nicole sarà questa settimana ospite di Vette in Vista, il festival presentato nell'ultima puntata di Picchi di Frequenza, e ci racconta il suo Quattro Passi in Famiglia, che è un manuale, una serie di proposte di trekking in Trentino per principianti ed esperti, ma soprattutto per famiglie. Insomma, lo lasciamo raccontare a lei, che meglio di me vi può dire qualcosa in più su questo testo. Intanto ciao e grazie Nicole della disponibilità. Ciao, grazie a te. E va bene, come hai detto, Quattro Passi in Famiglia dell'editore di Vidolomiti è un insieme di itinerari che si possono fare in montagna, in particolare in Trentino Alto Adige, dedicati alla famiglia. E il volume, diciamo, dopo una parte introduttiva, è strutturato in tre aree: una parte di trekking di più giorni dormendo in rifugio, una parte di escursioni a piedi di un singolo giorno e poi una terza parte di itinerari in bicicletta. Conclude, diciamo, la guida una sezione di giochi da fare sia durante le passeggiate sia da fare una volta tornati la sera in rifugio o a casa. E l'idea di realizzare un libro è nata proprio dall'esperienza personale, in particolare per quanto riguarda i trekking dormendo in rifugio. E infatti sono tutti, diciamo, percorsi che abbiamo fatto con la famiglia e le famiglie di amici negli ultimi anni. E quando ho iniziato a organizzare questi itinerari per noi, mi sono subito resa conto che in libreria o su internet esistono delle guide per famiglie quando, diciamo, si cercano escursioni da fare in giornata, ma quando invece ci si vuole orientare verso percorsi di più giorni è difficile, perché le guide, insomma, che si trovano propongono le Alpi di Esso, le Dolomiti, quindi percorsi più impegnativi che è difficile fare con bambini e piccoli. Quindi questi itinerari sono proprio pensati a contatti brevi, con tanti punti di sosta e senza difficoltà tecniche e alpinistiche. Volevi in qualche misura sdoganare un'idea di turismo, di trekking, di più giorni però a portata di famiglie. Ti chiederei di entrare un pochino nel merito, ecco, c'è un indice ricchissimo di proposte. Se dovessi consigliarci una, due itinerari, magari uno di un giorno e uno invece di più giorni, che cosa potresti raccontarci? Allora, il libro si apre con un percorso dormendo in rifugio sulle Dolomiti di Sesto, e quindi, diciamo, sono montagne famosissime, che, diciamo, famose per le cime di Lavaredo, ma non solo. E il percorso, diciamo, parte dal rifugio Tre Scarperi nella Val di Dentro e arriva, insomma, con un itinerario molto panoramico al rifugio Locatelli, che ha una bellissima vista sulle tre cime, e poi da là, diciamo, viene proposta un'escursione con zaino leggero proprio intorno alle tre cime. E perché appunto, diciamo, si alternano sempre giornate, magari tappe un po' più impegnative a tappe più brevi, e una terza notte si dorme al rifugio Comici e anche là, diciamo, si dorme una seconda notte per fare poi un'escursione verso il rifugio Carducci di un singolo giorno, insomma. E il percorso si conclude con il rientro per la Val Fiscalina fino, insomma, dove si è lasciata la macchina. E quindi, diciamo, questo qua è un percorso in realtà che un escursionista adulto potrebbe fare anche un singolo giorno, però viene spezzato in varie tappe proprio per permettere anche ai più piccoli di partecipare. E quello, diciamo, che un po' caratterizza secondo me questa guida è l'aspetto, diciamo, delle motivazioni. Infatti non è solamente una descrizione degli itinerari come si trova in una guida escursionistica classica, che pure ci sta, con tempi di dislivello, tempi, diciamo, percorrenza, dislivello, recapiti dei rifugi, ma, diciamo, vengono date una serie di suggerimenti ai genitori per motivare i piccoli camminatori, perché poi alla fine per i bambini, diciamo, la motivazione principale è il gioco, e non vengono, diciamo, appagati da paesaggi grandiosi o dalla camminata per il gusto di farla. E quindi l'idea è di suggerire, diciamo, cosa c'è di interessante per un bambino durante il percorso, fotografie di fiori, di piante che si possono poi riconoscere magari con l'aiuto di un adulto, punti dove si possono avvistare gli animali, larghi magari dove far saltare i sassi, ruscelli da attraversare, e insomma tutto quello diciamo che può rendere l'escursione più interessante per un bambino. E anche diciamo motivazioni da dare a ragazzi che crescono, che magari vengono appagati dal fatto di prendere sì, per la firma sul libro di vetta, acquisire il timbro del rifugio e essere responsabilizzati nella scelta dell'itinerario o nel prendersi cura della propria attrezzatura e del proprio zaino. Quindi diciamo non è solo una raccolta di escursioni semplici, ma anche di gite che per la loro caratteristica sono piaciute ai bambini e ai ragazzi, insomma, più grandi. Ecco, questa attenzione al gioco, al piacere dei bambini, alla capacità di trasformare, insomma, il trekking in qualche modo in un'avventura, ovviamente convive anche con la dimensione proprio del rifugio, che spesso nel nostro immaginario è un qualcosa, è un fatto per adulti. Nella tua esperienza, adesso giocando un pochino così a margine del testo, i rifugi che hai incontrato, che racconti nel libro, o quelli che non racconti, sono sempre posti ospitali o effettivamente si incontrano ancora delle difficoltà quando si ha a che fare con i più piccoli? Ma i rifugi innanzitutto sono molto diversi tra di loro, perché ci sono rifugi più spartani, molto piccoli, dove si dorme in camerate, e altri rifugi che ormai sono trasformati quasi in alberghi di montagna, molto confortevoli. In realtà, diciamo, noi abbiamo sempre trovato, diciamo, molta, diciamo, partecipazione. In realtà eravamo quasi sempre l'unico gruppo con bambini. Alcune volte ci hanno messo magari in una camerata a parte perché i bambini sono rumorosi e quindi insomma ci hanno emarginato in una zona di rifugio dove magari non davamo fastidio agli altri ospiti. Però il più delle volte diciamo i bambini venivano visti come insomma una curiosità, ecco, insomma, no, abbiamo sempre trovato grande accoglienza, ecco, dove siamo andati, sì, sicuramente. E anche per i bambini l'idea di raggiungere il rifugio dove si dorme su questi letti a cassello, magari a tre piani o tutti quanti nella stessa camerata, è molto avventuroso rispetto, diciamo, a dormire in un albergo normale o in un appartamento. Allora, io ringraziandoti per la tua disponibilità, ricordo il titolo del libro è Quattro passi in famiglia, edizioni Vivi Dolomiti, ti chiederei semplicemente di ricordare l'appuntamento di questa settimana a Vette in Vista. Sì, l'appuntamento è a Terni alle 18:30. E presso la sala dell'orologio. Il festival inizia giovedì ed è un festival di 4 giorni che prevede anche altri incontri con cortometraggi e altri ospiti. Insomma, il libro verrà presentato venerdì alle 18:30. Sabato 4 febbraio al Piano Terra di Milano, festa apeina del tesseramento. Dalle ore 19 l'autoaperitivo mangereccio, dalle 20 serigrafia, libri, gadget, presentazione del calendario dell'agenda primavera-estate dell'Ape di Milano e tesseramento, proiezioni e dalle ore 21:30 reading con Paolo Cognetti e tanti altri amici, musiche popolari e canti di lotta con i carrettieri. Tutto il resto su ape-milano.it. avevo al telefono oggi con Marco delle Brigate di Solidarietà Attiva, che ringrazio per la sua disponibilità. Lo abbiamo contattato dopo la pubblicazione di un appello, il titolo è Dai campi al campo per un'inchiesta sul doposisma nei Sibillini. È una sorta di chiamata per la ricerca o per la conricerca. È un appello che si è appena, la cui call si è appena conclusa il 31 gennaio, almeno stando alle dichiarazioni iniziali. Ti chiedo anzitutto come è andata, se già avete tracciato un bilancio così dell'interesse per l'iniziativa, e che cosa succede da oggi in poi. Allora, innanzitutto grazie per la chiamata, per l'intervista, per diciamo tenere viva l'attenzione sul tema dei terremoti nel centro Italia. La chiamata è andata molto bene, c'è stata larga partecipazione, adesso dovremo vedere come organizzare quelli che si sono offerti per fare questo esperimento di conricerca nei territori del sisma. Faremo anche una selezione in base alle disponibilità, ai tempi, eccetera, in modo da fare uno o più gruppi di lavoro, e ci sembra un'iniziativa importante sotto due aspetti. Il primo, ci inseriamo dentro un filone culturale, politico, che adesso qui non sto a dire per ragioni di brevità, ma che fa dello strumento di ricerca uno strumento anche di azione politica dentro una vicenda che riguarda una comunità, una frattura sociale prodotta in questo caso da un sisma. La seconda, ci sembra importante costruire elementi che diano una descrizione di quello che avviene su un piano anche scientifico, ribaltando tante troppe chiacchiere inutili che si fanno. Pensiamo che produrre strumenti di ricerca di questo tipo sia utile a quelle comunità e utile al futuro di noi tutti, per evitare di ripetere stupidaggini. Ecco, a questo proposito si parla di quattro versanti operativi: il Tronto, il Fermano, l'Umbro e l'Amatriciano. Volevo chiederti ad oggi qual è il contesto, insomma, in cui siete, se ve n'è uno tra i quattro in cui siete operativamente sul campo con più forza, e quali sono le motivazioni che vi spingono, insomma, a coprire eventuali buchi di presenza da parte invece di realtà istituzionali. Insomma, qual è la situazione, per quello che si può raccontare in pochi minuti, oggi al 2 febbraio del 2017? Siamo presenti con forza in tutti e quattro i nostri luoghi di intervento, anzi direi in cinque, perché ovviamente dopo le scosse del 18 e dopo le grandi nevicate si è aperto un campo di intervento anche in Abruzzo, dove sono state organizzate parecchie squadre per sparare la neve e per intervenire anche su quello spazio lì, anche se non abbiamo poli stabilmente organizzati come negli altri quattro campi di intervento che abbiamo sul cratere del sisma. La parte marchigiana, che riguarda la provincia di Macerata a cavallo con l'Umbria, è più reattiva rispetto agli errori che anche da un punto di vista dell'azione del governo sono stati compiuti nell'immediato post emergenza, perché a memoria di alcune tipologie di soluzioni adottate nel sisma del 97, e quindi si richiama più esplicitamente o ha più forza, diciamo, nel richiedere soluzioni che già conosce e che trova più consone ai propri bisogni. La parte della provincia di Ascoli Piceno e quella laziale, per capirci, due tra i comuni più colpiti dove noi operiamo, Arquata del Tronto e Amatrice, invece la complessità della situazione è identica, la drammaticità del terremoto simile, ma c'è meno esperienza, meno memoria e quindi c'è anche più confusione all'interno della popolazione nel confronto col governo, nella possibilità di indicare delle soluzioni corrispondenti ai propri bisogni. Quindi mi rimane complesso dire quale zona del cratere vive una situazione più difficile. Sicuramente ci sono reazioni dirette. Quello che riguarda tutto il cratere è che le soluzioni governative sono state sbagliate a monte, cioè il governo ha deciso di non intervenire con i container, cosa che invece fece appunto il terremoto di Corfiorito del 97 con container monofamiliari per l'immediata emergenza, non come soluzione di lungo periodo ovviamente, puntando direttamente alle cassette di legno a primavera, un modello molto simile all'idea da rivendere le case che fu lo slogan di Berlusconi all'Aquila nel 2009. Questa cosa si è scontrata con un'estensione enorme del cratere, con i susseguirsi discorsi e con un bisogno di quella gente di rimanere in montagna su quei territori perché vive di un'economia di sussistenza legata all'agricoltura e all'allevamento, e quindi di fatto ha prodotto una fetta di popolazione che si è dovuta arrangiare da sé e che poi, quando è arrivata la neve, ha reso quella situazione drammatica per quella fascia di popolazione. Quando il governo ha provato a rimediare, il concatenarsi di scelte sbagliate, come per esempio alloggi con cucina in comune, bagni in comune, diciamo in formato ostello, difficilmente accettabili dalla popolazione, e burocrazia, quindi appalti ripetuti, concatenati, andati deserti, ha fatto sì di moltiplicare i ritardi, non solo nei container che poi non sono arrivati nella maggior parte dei casi, ma anche poi nella produzione successiva delle famose casette di legno a cui aveva teso fin dall'inizio, producendo ritardi su ritardi che oggi generano una situazione di incertezza drammatica su tutto il cratere, da Amatrice a Norcia, dalla provincia di Macerata a quella di Ascoli Piceno, dal versante maceratese. Tra l'altro mi sembra che questa lettura che tu dai riprenda anche un po' una di quelle delle due così citazioni, dei due riferimenti che date in testa all'appello sulle popolazioni due volte sinistrate, prima dal sisma e poi da un comportamento, un atteggiamento, una presenza spesso, come dire, che evita l'ascolto e che interviene dall'alto con la consueta disattenzione. Ti chiederei, proprio ritornando all'appello, avendo letto che il vostro riferimento è soprattutto a ricercatori, universitari e non, però che afferiscono all'ambito umanistico, soprattutto qual è invece la relazione che avete avuto con i tecnici, con chi si occupa del sisma da un punto di vista scientifico, insomma con le altre professioni? Sì, guarda, noi abbiamo privilegiato questo campo perché in realtà a noi interessano le comunità e come le comunità vivono e reagiscono in questo caso al sisma. È ovvio che non rinveniamo la partecipazione al gruppo di eventuali tecnici che sono esperti in geofisica o di materie, diciamo, affine a un profilo tecnico di studio che riguarda lo specifico del terremoto, però ci interessa capire come le comunità possono attrezzarsi a vivere con il terremoto, comunità che sono fortemente radicate a quei territori, e bisogna anche capire quindi come poi si può agire. Per esempio, una grande opera pubblica italiana è la questione appenninica, che è tutta sismica, che sta vivendo uno spopolamento da anni, mentre invece potrebbe essere una grande ricchezza nazionale il ripopolamento della nostra montagna appenninica, messa in sicurezza come cura del territorio e come prevenzione antisismica nella ricostruzione dei borghi, e messa in sicurezza da un punto di vista di un'altra economia che su quei territori può svolgere. Anche per sfuggire uno schema, diciamo, tecnicista per cui la valutazione e la gestione di un post sisma è fatta, tra virgolette, appunto, come dicevo, in maniera tecnica. Ci sono modi diversi che sono relativi sicuramente a delle componenti tecniche, delle componenti, diciamo, morfologiche del territorio, ma soprattutto la diversità di come affrontare un post sisma è dovuta alla diversità delle comunità che abitano quei territori, e quindi è quello che ci preme, diciamo, indagare per avere dei modelli che sappiano essere all'altezza di affrontare eventuali future emergenze. Assolutamente, mi avvierei verso la conclusione di questa nostra chiacchierata chiedendoti un paio di cose. La prima, se avete già previsto una forma di restituzione, di pubblicazione di quelli che saranno gli esiti e nei tempi della ricerca, e la seconda di lasciarci così con dei riferimenti utili a seguire, insomma, quello che è il lavoro delle Brigate di Solidarietà Attiva. Allora sì, lo abbiamo previsto, sempre se ci riusciamo, perché per le Brigate di Solidarietà Attiva ogni cosa, ogni passo, ogni campo è un esperimento, e quindi è sempre l'espressione anche di un lavoro, ricordo, integralmente volontario e, come recita uno dei nostri slogan, dal popolo per il popolo, cioè con la messa in condivisione di saperi, braccia, conoscenze, energie di persone in carne e ossa che decidono di condividere e di strutturare progetti. Quindi è sempre un esperimento, è sempre, diciamo, un percorso aperto che non sempre, diciamo, può riuscire. È ovvio che prevediamo che se riusciamo in questo intento di pubblicare poi il lavoro o i lavori che verranno fuori da questo esperimento di corricerca, e su questo, diciamo, vengo al secondo punto, tutto potrà essere seguito sul profilo Facebook dell'intervento delle Brigate di Solidarietà Attiva Terremoto Centro Italia e sul nuovo sito che poi pubblicizzeremo, anzi che abbiamo già iniziato a pubblicizzare dal profilo Facebook che stiamo mettendo insieme, perché il vecchio blog delle Brigate era uno strumento che appunto non consentiva di avere i luoghi, gli spazi per poter esprimere le tante attività che attraverso le Brigate si fanno sul territorio, e quindi quelli soprattutto saranno gli strumenti con cui si può rimanere in contatto con le Brigate e partecipare e diventare anche un brigante in una forma o nell'altra delle tante attività che facciamo sul cratere. Picchi di frequenza sta cambiando, come forse avrete notato stiamo cercando di curare meglio la parte audio, di dare stabilità ad alcune rubriche, anzi questa settimana mi devo scusare personalmente perché la rubrica di pedagogia della montagna, sebbene l'avessimo registrata, è andata in stand by, non volevo togliere spazio all'incontro con Micol, all'intervista con le BSA, abbiamo anche insomma tenuto strette le news proprio per dare la giusta dignità a questi due belli incontri. Per il resto però abbiamo un nuovo sito internet, amonte.info, dove trovate l'archivio delle puntate Spreaker, le anteprime tutte le settimane, così come sulla pagina Facebook abbiamo cominciato a lavorare diversamente, anzi se vi va di prendere parte a questa comunità e darci una mano a farla conoscere, a invitare i vostri amici, questo potrebbe essere un buon momento. Per tutto il resto, come di consueto, abbiamo i contatti che conoscete, l'indirizzo mail anzitutto abo@inventati.org o sul social network azzurro all'account @abuzzo3. La prossima settimana ci impegniamo a recuperare con la puntata di Pedagogia della Montagna a cura di Paolo Masala, torneranno le recensioni, torneranno insomma un bel po' di notizie per voi. Se avete fretta ci vedete questo sabato, perché saremo a Piano Terra in occasione della festa di tesseramento dell'Ape Milano, a partire dalle ore 18:30-19 al Piano Terra in via Federico Confalonieri al Civico 3. Altrimenti, se avete voglia di sentirci in settimana qui a monte.info oppure sull'account Spreaker, mentre noi ci risentiamo, come di consueto, il venerdì alle 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.